la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Mi ricordo perfettamente il momento in cui ho pensato che la musica sarebbe stata la mia strada. Il giorno in cui ero in classe, avevo 16 anni, facevo il terzo o quarto anno, non ricordo, e stavo cantando e facevo l'imitazione di Alice la cantante, e a un certo punto, in quel momento, è arrivato il professore di matematica, è entrato, mi ha sentita e mi ha detto: Turci, visto che canti così bene, vieni qua a cantare un po' di matematica. Io sono andata lì, ho fatto scena muta, ovviamente mi ha rimandato in matematica, insomma avevo ero abbastanza brava a scuola e mi rimandò in matematica. Da lì capì che non c'era molta soluzione, insomma non c'era una soluzione precisa per la mia, per il mio futuro, se non quello della musica, ecco, che il mio destino sarebbe stato quello, che la voglia soprattutto che mi portava avanti era proprio quella della musica. Noti di tabacco e tanghi, noti di ascensori e pianti, noti fatte di inseguimenti sulle scale i miei passi. Una voce perfetta, rock, chitarra a tracolla, un viso bellissimo, il corpo esile e nervoso, un atteggiamento sfrontato. Paola Turci si presentò così al grande pubblico di Sanremo. Era il 1986. La canzone si intitolava L'uomo di ieri. Era un uomo così, ma con delle possibilità. Era un uomo così, ma con delle possibilità. A Roma la gente cominciò a chiamarla la Turcina. A casa e con gli amici la ragazza si faceva chiamare Patty, in onore di Patty Smith. I giornalisti cominciarono ad occuparsi di lei perché affascinava il personaggio e perché si capiva che la ragazza aveva tanto da dire. In una celebre recensione fu lo stesso Adriano Sofri a dirsi rapito da Paola Turci. Eppure, non è qui che va cercata la prima volta di Paola Turci, anche se ci sono tutti gli ingredienti per fare di questa storia una storia perfetta. C'è anche il tema di un padre che ha paura che la strada della musica non sia quella giusta a dare a Paola Turci quella marcia in più per combattere. Non c'era molta soluzione, insomma non c'era una soluzione precisa per la mia, per il mio futuro, se non quello della musica, ecco, che il mio destino sarebbe stato quello, che la voglia soprattutto che mi portava avanti era proprio quella della musica. E infatti non ho fatto altro, ho fatto anche dei colloqui per entrare nelle grandi aziende, mi ricordo la Selenia, insomma, un po' per far piacere ai miei genitori che non avevano nessuna fiducia per quel lavoro lì, per il lavoro della musica. Però insomma, ecco, il mio punto fermo, la mia fissazione era proprio quella, ecco, cantare, ma non per avere successo quanto per esprimermi. Ecco, infatti questa capacità di trovare, come dire, questa chiave, no? Perché cantare per esprimersi è un po' la tua chiave anche artistica. Quali sono stati nella tua vita professionale i momenti in cui questa possibilità di esprimersi è stata raggiunta al massimo? Sicuramente ogni volta che faccio un concerto, lì ho quella sensazione, a parte, insomma, a meno che non ci sia un pubblico di totalmente distratto, svogliato e assente, cosa che insomma non mi è mai capitata, devo dire fortunatamente, ma perché insomma ci tengo un po' a richiamare l'attenzione del pubblico mentre canto, è come insomma quando una persona sta colloquiando con un'altra, sta parlando con un'altra e vuole l'attenzione, vuole essere ascoltata, ecco. Siccome insomma poi nella vita sono una che ascolta abbastanza, non mai abbastanza, però comunque sono una che si mette più dalla parte di quello che ascolta che non dalla parte di quella che parla, allora quando sono sul palco io vorrei essere ascoltata, non tanto per quello che dico quando finisce una canzone, ma mentre sto cantando una canzone, e da questo si evince la volontà di l'attenzione che io metto, la cura che metto ogni volta che ne so, che scrivo un testo, che scelgo un testo. Bambino armato e disarmato in una foto senza felicità, sfogliato crescerò e sarò un po' più uomo ancora, un'altra guerra di collera. Crescerò, combatterò questa paura che ora mi libera. Milioni sono i bambini stanchi e soli. Bambini sarà la canzone che aprirà un ciclo nuovo per la cantautrice romana e che, in qualche modo, segnerà l'inizio di un percorso, la prima volta, appunto. Quella prima volta in cui la Turci capirà che, chitarra alla mano, si può colpire più che con una spada. Anche il padre comincerà a rivedere il suo giudizio. La ragazza vince per 3 anni di seguito il premio della critica a Sanremo. È bellissima, da togliere il fiato, e misteriosa. Un mix perfetto, assieme ai suoi album ricercati e alle collaborazioni con grandi musicisti. Nel 93 un incidente d'auto, il viso sfigurato, 2 anni di silenzio, una sofferenza che la mette in profonda discussione. 23 operazioni dopo, i capelli gettati sul viso, Paola esce con il disco Una sgommata e via, scritto per lei da Vasco Rossi. È il 1995. La canzone Qualcosa è cambiato racconta un dolore ancora molto riservato. Che cosa vuoi ancora? La musica è la chiave per superare il dolore ancora una volta ed è l'ancora di salvezza. Ci vorranno tanti anni perché Paola Turci riesca a parlare dell'incidente, del dolore. Lo farà attraverso un libro, un romanzo dal titolo Con te accanto. Non sono una persona malinconica, ma amo molto esprimere la malinconia nella finzione, non certo perché voglio vivere di malinconia, amo esprimere la malinconia nelle espressioni artistiche, e il dramma, non la nostalgia, ma la grande passione con un po' di lacrima, un po' di sangue e un po' di grinta anche. Cosa importa se tu rimani qui? La prima volta. La prima volta di una ragazzina che canta nella classe di un liceo è lontana. Paola ha sofferto, ha maturato un'esperienza e una sicurezza che la porteranno molto distante dal suo punto di partenza. Ha 2 donne nel cuore, sua madre e Patti Smith. Intervista a Vanity Fair dirà di aver provato un dolore tanto grande da aver capito a un certo punto che l'unico modo per tornare a vivere era accettarsi così com'era, cicatrici comprese. La prima volta di Paola Turci, quel momento che cambia la vita per sempre, è dunque legato all'incidente d'auto che la blocca in un dolore silenzioso per 2 anni. Un dolore che porta la Turci a intraprendere percorsi sempre più impegnativi. Come tarda questa notte la mia luna spina, venga giù alla finestra quella luce bambina, venga giù dal silenzio mia cara compagnia, con i miei muscoli stanchi sono qui che aspetto. Guardare agli altri era già nelle corde della cantautrice. Già dopo il singolo Bambini attirerà infatti l'attenzione di diverse associazioni umanitarie. Dal ritorno sulla scena dopo l'incidente, però qualcosa cambia. La Turci comincia a dedicarsi sempre più al sociale, cantando angoli sperduti e devastati del mondo. Ma non c'è stato un momento preciso in cui io ho deciso, ho scelto di fare quello, di scrivere quelle tematiche. Credo che è stato l'istinto a portarmi verso quelle tematiche, la forza emotiva che suscitavano in me quelle storie, quelle tragedie, anche per esempio la storia di quella ragazza, di quella ventenne marocchina che venne uccisa dal fratello per strada a Berlino perché è considerata troppo occidentale, proprio si intitolava Troppo Occidentale la canzone. Sono troppo occidentale, una rosa nel deserto, le distanze sono limiti, senza fine. Non avviene per caso dunque questo cambiamento di Paola Turci. Gli anni, la maturazione, anche attraverso un dolore del quale Paola non fa più segreto, la portano a spostarsi da temi intimi a problemi sociali. Eppure, la prima volta che la Turci si occuperà degli altri, attraverso le sue canzoni, coinciderà anche con il suo debutto. Bambini sarà infatti la canzone che Amnesty International vorrà usare per parlare di chi nel mondo voce non ha. Mentre una prima volta c'è stata quando... una prima volta nel rapporto con, diciamo, con le varie associazioni c'è stata con Bambini, quando ho cantato Bambini la prima volta a Sanremo tanti anni fa. Mi ricordo che fu proprio Amnesty International a cercarmi perché voleva quella canzone, perché voleva che facessimo qualche cosa insieme per i diritti per i bambini, quindi insomma... Bambino armato e disarmato in una foto senza felicità, sfogliato e immaginato in questa vita sola che non ti guarirà. Crescerò e sarò un po' più uomo ancora, un'altra guerra mi collerà. Crescerò, combatterò una canzone nuova ancora oggi, forte e disarmante, che porta Paola Turci sui palchi di tutto il mondo e la convince che la musica, solo la musica, può raggiungere molti più traguardi di quanto ci si aspetti. Mi ricordo che fu una cosa che mi colpì, ecco, e quindi mi coinvolse molto. Da allora non smetto, attraverso questa canzone, di andare nei luoghi dove è più forte, diciamo, il dolore che la tragedia che non il resto, ecco, però è forte anche la voglia di mettere a posto, di sistemare le cose. Quindi sto parlando del Vietnam, sto parlando di Haiti in particolar modo e vari posti dove sono stata. Sei stata ad Haiti ultimamente anche? Sono stata ad Haiti l'ultima volta per sposarmi, in realtà un anno fa. Ma ci sono stata già un'altra volta, la prima volta, sono stata due volte, la prima è stata nel 2009, quindi un anno dopo l'incidente, un anno dopo il disastro, il terremoto che ha devastato Haiti. Quindi insomma c'è un legame. Poi c'è mia sorella che lavora attivamente alla Fondazione Francesca Rava da ormai quasi 6 anni, lei c'è stata svariate volte, perciò insomma in famiglia parliamo, condividiamo, insomma è un argomento abbastanza centrale nel nostro quotidiano. I suoi genitori a un certo punto hanno capito di che pasta era fatta, cioè che bisognava avere fiducia invece in lei, nel suo talento? I miei genitori hanno reagito in modo differente. Mia madre mi ha dato fiducia a prescindere, però dandomi una scadenza, quindi mi ha detto ti do un paio di anni, io avevo 20 anni quando ho cominciato, da un paio d'anni, se in 2 anni non succede niente, prenderai un'altra strada, la strada che ti indicherò io. Mio padre invece proprio mi cacciò di casa quando gli dissi che volevo cantare, però poi avvenne questo fatto molto strano, cioè io andai in montagna e mi misi a cantare nell'albergo in cui stavo e lì c'era un giornalista che doveva fare un servizio sulle capitali dell'inverno e mi inserì dentro questo articolo molto bello, molto lungo, eccetera, insomma sperticandosi in lodi. Mio padre vide, lesse quell'articolo e decise di perdonarmi, insomma capì che io forse avevo intenzioni serie. Una dopo l'altra, le porte che si erano apparentemente chiuse in faccia alla ragazza romana, che all'esordio fu paragonata a Joan Baez, si riaprono. Paola Turci procede. È forte perché ha superato tante paure e tanto dolore fisico. È forte perché sa che ogni volta che inizia a suonare la chitarra, qualcuno che non avrebbe altrimenti voce potrà essere raccontato. La prima volta termina qua. Se volete potete riascoltare la puntata andando sul sito di Radio 24, oppure potete scriverci una mail all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Io vi ringrazio per averci ascoltato e vi do l'appuntamento domenica prossima, sempre alle 13:05, sempre su Radio 24. Buona giornata a tutti, da Cristina Carpinelli.